avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail. Ça fait déjà. Oggi non riuscirò a fare la puntata se non riuscirò a contare nella collaborazione di chi mi ascolta. Mi rendo conto, l'argomento è scabroso, l'argomento è difficile a raccontare, articolare su proprie esperienze personali, ma per dovere di cronaca dobbiamo farlo. Oggi dobbiamo definire quelli che sono i luoghi fatali dell'acchiappanza individuale. Cosa significa? Significa che non tutta l'umanità è desiderosa di incontrare altri esseri umani con cui scambiarsi impressioni, scambiarsi regole di vita, anche semplicemente chiacchierare, fino ad arrivare alla fatale intima d'azione, non è capace, non vuole o è tartassata quotidianamente già dagli strumenti che uso personalmente, non vuole far conto delle maniere informatiche di conoscersi. Quindi io questa mattina escluderei i social network e tutti gli annessi e connessi, che sappiamo benissimo che la cui funzione principale è proprio quella di mettere persone in relazione tra loro. Adesso poi è fantastico, ritorno alle vacanze, tutto un espandersi di toraci villosi, di cosce abbronzate, insomma le ultime fotine dell'estate permettono una tiepida ripresina autunnale delle relazioni soprattutto clandestine. Ma cerchiamo di definire quello che è la persona tipo che noi vogliamo questa mattina classificare nelle sue possibilità di relazionarsi. Uomo single, che magari ancora vive in famiglia, sui 45-50 anni, rendiamo conto, è un caso clinico, ma esistono anche questi, particolarmente sfortunati, hanno magari avuto un grande amore finito tragicamente, o uomini separati che una volta finito il loro rapporto matrimoniale non hanno saputo ricostruirsi una storia sentimentale. Donne piacenti, belle, autonome, fantasticamente fantasiose, che però si trovano in difficoltà proprio perché lavorano, proprio perché hanno la giornata molto impegnata, ad avere relazioni, incontri con altri uomini, non necessariamente per ristabilire rapporti duraturi ed eterni, ma anche semplicemente per passare una serata, anche semplicemente per sentirsi gratificate l'attenzione altrui. Cosa fanno questi? A meno che non abbiano facoltà, modo e attitudine di passare il loro tempo a guardare l'iPhone e seguire i messaggini che vengono da Facebook. Beh, si incontrano in alcuni luoghi. Ebbi la rivelazione un giorno o due fa da un'amica mia che mi ha detto: sai, sono stata a un aperitivo organizzato da un'amica mia single. E cosa sono gli aperitivi? Io per aperitivo avevo un'idea molto più banalmente limitata, una bevanda che si prende assieme a alcuni stuzzichini prima di andare a cena per far due chiacchiere con gli amici. No, l'aperitivo è una cosa che organizzano qui in area romana alcune signore con desiderio di essere benefattrici delle proprie coetanee o anche per se stesse. Si fanno anche in luoghi molto tristerrimi, come, che ne so, un bar terrazza sopra un grande magazzino dalle parti di San Giovanni a Roma, per fare un esempio. Si organizza questo aperitivo, la gente paga 10 euro, danno un po' di noccioline, qualche salatina, un po' di patatine, il bicchiere, comincia una musica lievemente soft, arrivano lì signore e signori, pagano i 10 euro, prendono il bicchierino in mano con lo spritz, girellano, cercano di conoscersi. Beh, a fine serata, cioè verso le 21:30-22, si spera che qualcuno abbia risolto qualcuno dei suoi problemi. E poi ci sono un'infinità di altri sistemi. Beh, questa mattina, come ho fatto ieri su Facebook, ho avuto una grandissima risposta. Vorrei farlo concretamente, senza vergogna, senza timore. È un desiderio lecito, è un diritto quello di conoscere altre persone. Ecco, se non abbiamo voglia di farlo attraverso vie telematiche, dove ci incontriamo? Dove ci vediamo? Dove si conosce gente sconosciuta? In crociera, nei bar, nelle palestre, nelle scuole di cucina, nelle sale da ballo. Si balla il tango o ballo latinoamericano in genere, ballo molto promiscuo che permette leciti impuntamenti e strusciamenti che sono, si sa, l'anticipazione e il preludio ad ogni intima d'azione. 800 24 00 24, cominciamo con qualche testimonianza che siamo riusciti a raggranellare ieri con grande fatica ma anche grande soddisfazione. ho partecipato con una mia amica per la curiosità di vedere di che cosa si trattava, e funzionava con un sistema in cui appunto le donne erano sedute tutte lungo un tavolo e gli uomini invece erano di fronte, e ogni 3 minuti mi pare si alternavano, cambiavano di posto e passavano appunto al posto a fianco. Quei 3 minuti e si parlava un po' di tutto, dopodiché le donne avevamo tutti dei numeri, quindi gli uomini avevano dei numeri e noi donne avevamo a nostra volta un numero, e la donna aveva un carnet sul quale sceglieva, dava dei sì agli uomini, al numero corrispondente all'uomo che aveva in qualche modo scelto, che le interessava. Alla fine della serata si consegnava questo carnet. La stessa cosa la facevano gli uomini. Ecco, questa nostra gloriosa ascoltatrice, gloriosa perché è la prima che ha avuto coraggio di fare testimonianza, partecipa a uno speed date. Lo speed date nasce, mi sembra, come fenomeno israeliano, nella necessità di far conoscere fra loro, spero non dire boiata, mi sembra aver letto questo, i colonizzatori del nuovo Stato, che non avevano tempo di avere relazioni umane, quindi ci si mette in due gruppi separati, uomini e donne, poi a rotazione attorno ai tavolini c'è un tempo fisso, di solito sono 2 minuti e mezzo, 3 minuti, in cui ci si scambiano tutte le impressioni possibili e immaginabili. Ognuno dei due contendenti, chiamiamoli così, seduti al tavolino, traccia delle crocette in una sorta di questionario, che è la scheda segnaletica del probabile partner, e alla fine si fa una somma e il risultato dovrebbe, in maniera un po' approssimativa ma abbastanza e robustamente attendibile da un punto di vista statistico, dare l'idea di quello che potrebbe essere il partner ideale. Gli speed date se ne fanno tantissimo in Italia, amiche mie single, separate, aspiranti intime datrici mi hanno fornito un'infinità di numeri e di indirizzi. Esistono degli aggregatori in internet dedicati proprio ai single, che dove ci sono naturalmente città per città gli indirizzi e i riferimenti. Sto vedendo adesso serata riservata single di fascia età under 45, quindi io sono già fuori, non potrei partecipare. Non so se ne esistono per chi ha più di 45 anni, probabilmente ci si comincia a avvicinare ai centri anziani, alle bocciofile e via dicendo. Dove ci sono appunto aperitivi, spiddette, incontri, luoghi da ballo. Ripeto, non è un fenomeno di cui ci si debba vergognare o si debba sentire in colpa perché si cerca compagnia. Capiamo che la vorticosa vita contemporanea impedisce di avere quegli spazi leggeri e leggiadri per potersi incontrare. Come ci si organizza? Diamo anche dei consigli che potrebbero essere utili alle persone che ascoltano. 800240024, Leonardo. Buongiorno Nicoletti, senta, la mia è stata una scoperta, diciamo, quasi inconsapevole. Io 8 anni fa comprai un cane e da quel momento nel luogo di incontro proprietari di cani, quindi parchi, giardini, è stato una rivelazione, nel senso pieno di signore, ragazze, tra le sì, che poi tutto, moglie. Se ricordo bene, anche io ai tempi in cui andavo in giro col cagnolino, inizia tutto con la frase maschio femmina, perché i cani cominciano a annusarsi sotto la coda, e già quello apre la strada a qualsiasi metafora, capito? Maschio femmina, femmina, allora siamo sicuri, e allora lì comincia. È così. Io avevo una cagnolina golden retriever molto dolce, quindi che carina, e da lì è stato. Io avevo lo Scottish Terrier, che lo Scottish Terrier ispira subito tenerezza, e a quella gaglia già. Poi con quella coda dritta dava subito idee, che faceva subito capire. Quindi con questo Scottish Terrier devo dire ho avuto le mie soddisfazioni. Ah, e quindi vedo che condivide la mia. No, la mia, guardi, esperienza. Io ho raccolto fra ieri sera e questa mattina un'infinità di luoghi fatali dell'incontro fatidico. Quello del cagnolino è uno dei più frequentati. però ci sono delle persone che probabilmente sono già più avanti rispetto a noi, suggeriscono il furetto, dicono il cane ormai è una cosa passata, andate in giro con un furetto e vedrete. Non ho mai provato, ma vediamo, andiamo avanti con la testimonianza di Stefania. Se l'uomo aveva scelto la donna e la donna aveva scelto quell'uomo, l'organizzazione poi qualche giorno dopo, matchando un po' i risultati, mandava i contatti a entrambi i contatti via mail, solo l'indirizzo mail, lasciando poi alle persone coinvolte la facoltà di andare avanti, iscriversi ed eventualmente scambiarsi i numeri di telefono. Già prevengo il commento che possono fare molte pie e proprie persone all'ascolto: ah, che cosa triste, che cosa drammaticamente spoetizzante, ridurre il fantastico momento dell'incontro amoroso, dell'incontro sentimentale, dell'incontro sensuale a un semplice compilazione di dati. Ma perché, scusate, se il metodo funziona, si riempie dei vuoti, potete mettere l'attesa, le palpitazioni, per il momento fatidico in cui la società organizzatrice, lo speed date ci manda il response, dice guarda quella persona e quella sconteva bene, e poi cominciamo a vedere se sul terreno concreto poi dell'incontro reale si confermano quei dati. 800240024, come fate ad incontrarvi voi che in realtà vivete soli? A me è andata, alla fine ho scelto mi pare 5 uomini, quella sera credo di averne conosciute una trentina, i 5 sono stati gli uomini che di cui ho ricevuto il contatto, quelli che avevo scelto io corrispondevano poi in realtà a quelli che avevano a sua volta scelto me, e ne ho sentiti mi pare tutti via mail e poi visto successivamente 2 di loro. Io sfido chiunque della schiera dei passatisti dell'incontro fatale dato secondo metodi canonici, quindi non lo so, la festa in famiglia, la gita aziendale, la ricerca della scrivania accanto, non so quali siano i metodi tradizionali, ma quando mai avrete a disposizione un database di 30 persone a sera, 30 persone su cui poter scegliere, guardate che sono tante, 30 persone ma non vagamente incontrate, 30 persone determinate all'incontro, quindi 30 di cui potrebbero sicuramente essere tutte 30 disponibili, tutto sta a noi scegliere. Quando poi ho rincontrato uno di questi, ci siamo visti, abbiamo bevuto una roba, un caffè, ci siamo trovati un pomeriggio mi pare, abbiamo bevuto un caffè e poi non ci siamo più visti. Con un altro invece ci siamo visti 2 volte, ma non era proprio il caso, ecco. Questa formula è veramente troppo veloce, in quei 3 minuti uno non si rende conto, veramente non si rende conto, vedi l'altra persona che in realtà è seduta di fronte a te, non la vedi neanche in piedi, non hai modo di scambiare. No, non era proprio, è stato così, quando ho rivisto queste 2 persone ho detto oddio, non era proprio il caso. Certo, il culo basso si nasconde, si mistifica nello speed date, ci sono anche molti altri problemi che hanno la loro importanza in un rapporto che possono passare in secondo piano, però è anche vero che in realtà in quei 3 minuti si realizzano tutte le alchimie, tutti gli input, tutte quelle solleticazioni interiori che in realtà determinano l'affezione verso una persona. Noi ci innamoriamo, ci appassioniamo, ci incuriosiamo una persona l'istante in cui la vediamo camminare, ne sentiamo il profumo, le lamentiamo, abbiamo il contatto fisico, bastano quei 3 minuti, secondo me, sono più che sufficienti. La formula della cena è sicuramente più carina, intanto la formula indicativamente prevedeva che a ogni portata cambiassero gli uomini del tavolo, eravamo un tavolo di mi pare 8 persone, 4 donne e 4 uomini, e a ogni portata, quindi all'antipasto avevamo 4 uomini, al primo 4 uomini diversi, al secondo altri 4, ed era una sala in cui c'erano questi diversi tavoli combinati per il numero dei partecipanti in virtù delle portate. Cioè, all'antipasto quei 4 che avevano fatto l'antipasto con un tavolo passavano al nostro e facevano il primo al nostro tavolo. Questa formula è sicuramente più divertente perché permette in un momento un po' più, diciamo, anche un po' più tranquillo, che quello che si mangia, si parla di altro, non necessariamente si può anche, c'è anche un'interazione magari con la persona che hai accanto, che anche se non è l'uomo perché sta con te, magari è uno che partecipa al tavolo, quindi c'è uno scambio diverso che permette una maggior conoscenza. Io rispetto a questa ultima modalità di incontro ho qualche perplessità, è un mio problema personale. Io ho difficoltà profonda e viscerale ad associare la sensualità con il cibo. Secondo me quando si mangia si biascica, si mettono in moto dei meccanismi digestivi che sono antitetici a ogni attizzamento. Però la maggior parte dell'umanità considera l'invitare a cena, andare a cena assieme, già il preludio per un atto amatorio. Quindi guardate che fortuna questa signora, grande buongustaia. Si becca la roulette a tavola di 8 persone a rotazione, in cui immagino ci sarà una gara disperata per ottenere i posti del dessert, perché è più fortunato. Chi consuma il dolce e l'ammazza caffè insieme alla persona già ha, diciamo, il bersaglio riscaldato dalle tagliatelle, dall'arrosto misto, dalle patate al forno e via dicendo. Poi è un mangiare più discreto e più allusivo quello del dolce. Potete mettere un tiramisù nei confronti di maccheroni o di tagliatelle alla matriciana e via dicendo, che schizza il sugo, fa uno schifo dappertutto. Quindi secondo me anche in qui ci sono dei gradi gerarchici. Mandiamo ai nostri ascoltatori che finalmente si sono svegliati. Giulia, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta. Dove va a razzolare uomini lei? Non ho capito, scusa. Dove va a razzolare uomini? No, appunto, non so dove andare. Allora, lo so, il problema. A me sono... Allora, io ho 60 anni, sì. Ma mi trovo bene, cioè dopo aver passato una vita con i coetanei, ho concluso che però a me... Io mi trovo meglio con persone decisamente più grandi di me. Quindi a me piacerebbe conoscere uomini dai 70 anni in su, cioè uomini simpatici. Cioè, mi è capitato di avere... È una deriva alla necrofilia, però, che non so quanto possa soddisfarlo. Io ho conosciuto persone molto intelligenti, con una grande esperienza, che avevano un sacco di cose interessanti da raccontare, che non hanno più problemi di carriera e di lavoro e quindi sono persone tranquille, rilassate, disponibili. Se lei cerca la tranquillità e il rigor mortis va benissimo. No, però... ma non la tranquillità nel senso di non nevrosi, la tranquillità nel senso poi di avere del tempo per leggere, viaggiare, andare al cinema e non essere sempre afflitti da problemi di lavoro, perché oggi, visto com'è il lavoro così stressante, le persone in età lavorativa hanno poco tempo e sono molto stressate, bisogna anche capirli, poveretti, perché è normale che sia così. Invece uno che ha fatto la sua carriera, è soddisfatto, ha una tranquillità mentale, non il rigor mortis. Ma lei mai ha pensato a 60 anni, che è un'età che, ahimè, per fortuna, sto quasi per lambire, fra qualche anno anche io avrò 60 anni, non potrebbe anche guardare un pochino nell'altra sponda, nel senso persone un po' più giovani? No, non mi interessano, no. Vedo che non è una cougar, le persone lei, giovani sono meno educate, sono meno, anche meno, più superficiali, nevrotici, cioè, e quindi, i 40-50 anni proprio non mi piacciono, non... Ah. Non mi ci trovo e non. Quindi non lei dal 70 in su tutta vita. Beh, guardi, sì, il consiglio. Ma io ho conosciuto persone meravigliose. Ma assolutamente, ma lo immagino sicuramente. E mica... non solo, io ho avuto due zie che hanno sposato uomini molto più grandi di loro, di una addirittura 35 anni più grande di lei e l'altra una ventina. Io credo che siano stati i matrimoni più felici tra sì, quelli sì, che ho visto. Paola, la capisco. Ma però, persone molto Giulia, in gamba, scusi. Uno faceva il pittore. Sì, sì, Giulia, era... però è l'antitesi rispetto a quello che stiamo dicendo. Persone che cercano compagnia, cercano fremiti, cercano passione. Lei cerca ma sì, la ma tranquillità. Io credo che possa esistere la passione anche... Senza comunque lei non ha difficoltà. Ma persone anziane, sole, desiderose di conoscere, se ne trovano a bizzeffe. Il problema è riuscire a trovare qualcosa che susciti una scintilla nuova rispetto alla norma. Comunque, in bocca al lupo. Giovanni. Genova? No, Giovanni, sì, Giovanni. Giovanni quale? È che lei solo, cioè... Ah, ecco, basta, se credevo ce ne fossero di più. No, no, al mondo è un'infinità, ma in questo momento in linea c'è solo lei. E allora vedevo, sì, sì. Andiamo al punto, Giovanni, lei dove va a razzolare? No, niente, niente. Intanto gesto dell'ombrello sul rigor mortis dei sessantenni. No, no, la settanta. No, ho detto, guardi. Se lo tenga. No, ma guardi, io so, dovrei farlo prima di lei, dovrei farlo. Ho detto, è una deriva verso il rigor mortis. Se una persona di 60 anni, circa 80 anni in su, aumentando il desiderio e il livello della passione, aumenta anche l'età. E dobbiamo arrivare a 120, il giovanotto. Sì, comunque, vabbè. Andando al sodo. Don Verzé è in qualche difficoltà in questo momento, quindi ci accontentiamo di quello che la natura ci passa. Senta, qui il discorso è la qualità, chiaramente, no? Per cui, soprattutto dalla mia veneranda età, come lei dice. Quanti anni ha lei? Lo sa lei? Non lo so. 61. Ah, beh, vabbè, no, dica così, sembra che mica... Allora, lei, andiamo al dunque, però, sennò chiacchiera tanto. È l'uomo chiacchierone che poco conduce. Qual è il posto migliore, secondo lei, per riempire dei vuoti? Dove si opera, dove si produce il proprio reddito, dove si lavora praticamente, no? Io sono un consulente, definiamoci così più o meno, sia in contatto con la più svariata gente e sicuramente si può setacciare della qualità, ecco. Questa è la mia cosa. Poi, allora, lei probabilmente ha una fortuna quella di fare un lavoro che le permette mobilità e non ha un luogo fisico circoscrivibile del lavoro. Un impiegato, un'impiegata può fare qualche timido passo tra i colleghi, ma si sa dopo 10 minuti. E poi l'amore di scrivania è un amore vincolante, noiosissimo, peggio che un marito e che una moglie. Uno non si leva più di torno, si crea problemi nell'entourage professionale, diventa una vox populi che può anche nuocerci da un punto di vista professionale. Le persone che stiamo individuando cercano evasione, l'evasione è lontana dal luogo in cui si è quotidianamente legati per motivi di lavoro. De vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt. 80024 0024. Ci stiamo orientando in luoghi fatali dell'amore, dell'incontro, del fremito passionale. Lo stiamo facendo assieme al nostro pubblico. Ci suggerisce le maniere antiquate, antiche, analogiche se volete, per incontrarsi. Sì, perché quelle telematiche ormai le conosciamo tutte, ne abbiamo parlato sin troppo, sono sin troppo facili. Quali sono le maniere per poter incontrare persone? Quando uno persone non ne conosce, se vogliamo escludere l'ambiente lavorativo, come qualcuno già sollecitato prima a riflettere, nel luogo di lavoro si fanno amanti, si fanno dei sostituti o degli aggregati familiari, nulla a che fare con la passione. L'amante sul luogo di lavoro è pesantissimo da sopportare, meglio un marito, meglio una moglie, perché c'è un controllo sociale, sono i colleghi e le colleghe, poi a oggi sai quello ha fatto questo, ha fatto quell'altro, e uno è ancora più legato, ancora meno libero, ancora meno appassionato di quanto potrebbe esserlo se fosse monogamo. Beh, oggi vediamo che abbiamo già messo a punto una signora che ci ha raccontato la sua fantastica, dal suo punto di vista, esperienza dello speed date. Ma non tutti sono d'accordo che lo speed date, questo luogo di veloce possibilità di incontro multiplo, sia la maniera migliore per incontrare persone, anche perché la qualità umana di chi lo frequenta non sempre la più eccelsa, come ci dice Laura. Laura, buongiorno. Buongiorno. Oh, è stato un incubo veramente. Ecco, fammi capire, perché noi pensiamo allo speed date come vediamo nei film americani, donne fantastiche e anche gli spot che fanno su YouTube, devo dire, fanno sempre vedere donne bellissime, uomini che uno non capisce perché debbano andare a razzolare negli speed date se sono così affascinanti. Ecco. Invece? Allora, le donne erano fantastiche, in quanto donna racconto questa esperienza, quindi non posso dire diversamente. No, devi essere sincera però, onestamente. Qual è il tipo umano che frequenta lo speed date? Io non lo considero l'ultima spiaggia degli sfigati, te lo dico lo considero questo. No, ma neanche io, anzi sono partita in realtà, l'ho fatto solo quella volta, ma sono partita in realtà molto incuriosita. No, cioè le donne secondo me non sono tipi umani assolutamente normalissimi, capito? Cioè questo è il fenomeno, ci sono belle donne, piacevoli, ricche di talento, che sono costrette ad andare allo speed date perché non trovano uomini disponibili in nessun'altra parte dell'universo. Esatto. Sì, perché la media comunque dell'età delle donne era 35-45 anni, cioè comunque c'è assolutamente donne, tra l'altro anche carine, belle, magari non c'era la modella russa, ecco, per intenderci. Che non sappiamo che farcene le modelle russe. Quelle le lasciamo ai commercianti di parmigiano di 70 anni. Donne che vogliono lo fascino. Il problema purtroppo, allora io premetto, sono andata lì un po', allora, molto incuriosita, ho detto vabbè, cioè, sono andata lì per lavoro perché dovevo raccontare un po' questo fenomeno, no? Mi sono infiltrata, però in realtà ho detto vabbè, metti che ero singolo, ho detto magari. Hai fatto tutto il giro canonico, cioè hai visto tutti gli uomini che devi vedere. Eh sì, perché qui lo speed date a cui ho partecipato io andava, era in onda su un pullman. Ah, itinerante era. Itinerante nei luoghi più romantici di Milano. Tu stavi. E quali sono i luoghi romantici di Milano? Me lo spieghi? Partiva dal castello Sforzesco by night, poi si andava a Brera. Tutta vita, vita, soprattutto d'inverno, guarda. Esatto, era, tra l'altro era San Valentino, no? Quindi io avevo votato San Valentino a questo scopo. Vabbè, niente, quindi sali. Come erano vestite le persone? Con il vestito della festa o normalmente? No, alcune col vestito della festa, gli uomini, no, anche le donne, devo dire, le donne erano molto ben agghindate, gli uomini, alcuni col vestito della festa, c'è proprio giacca e cravatta, e invece altri assolutamente normali, felpa, maglioncino, eccetera. Da Umarell praticamente, sì, con la giacchetta di Dino, vabbè. Niente, vabbè, praticamente parlavi 10 minuti, poi avevi un foglietto in cui tu mettevi il voto, cioè sostanzialmente se volevi rivedere quella persona. Che uomini hai conosciuto? Che uomini hai conosciuto? Un altro passeggio. Ecco, il problema è... Dammi una tipologia di maschio. Mi fermo, il primo è stato un ultra quarantenne, cinquantenne, calvo, pelato, che aveva una... Vabbè, quello è testosterone, non è che fa male. Ascolta, con tutto il buon senso, cioè con tutta la massima fiducia, però mi sono spaventata perché indossava giacca e cravatta, ma la cravatta era di Titti, cioè mentre il canarino, quello che si vestì, insomma molto giallo. Cioè con il Titti giallo sulla cravatta. Comunque io imperterrita cerco di dargli una possibilità, allora insomma parliamo dei suoi gusti, di quello che gli piace fare, e lui mi racconta che vive con la mamma, che gli piace un casino ballare davanti allo specchio imitando Michael Jackson. E a quel punto mi sono alzata e me ne sono... Sei passata al successivo, e cosa hai trovato? Sì, il successivo devo dire che era più giovane, questo per dire che ci sono anche uomini giovani, non soltanto, aveva più o meno 30 anni, quindi ho detto dai, forse più o meno era il mio coetaneo, dai, adesso andrà meglio. È un vestito normalissimo, ragazzo dall'aspetto normale, aveva un po' gli occhi arrossati, ma cioè, vabbè, quello sai, se no non andava allo speed date, se non aveva dei problemi di occhiali. Sono spaventata, ancora gli do un'altra chance, iniziamo a parlare e lui mi fa: faccio, che lavoro fai? Fa: arroto coltelli, parlava così, E poi cioè, io un po' spaventata lo guardo meglio, cerco di farmi spiegare, e lui mi spiega che gli piace tantissimo la sensazione al tatto della lama, del coltello, cioè sembra veramente un film horror, giuro. Vabbè, ma c'è anche chi piace questo genere, non è... Beh, non so, a me non... Comunque l'idea che hai avuto te, statisticamente, allora, che allo speed date vanno donne che in realtà avrebbero comunque un mercato, mi si passi il termine, e uomini che in realtà sono un po' all'ultima spiaggia. Direi psicopatici. Psicopatici, va bene, grazie mille. Laura, Gabriella individua un altro sistema di improprio accoppiamento, lei gestisce una scuola di cucina. Gabriella, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho una scuola di cucina, sono uno chef e insegno da più di 15 anni e devo dire la verità che insomma il luogo della scuola di cucina è un buon luogo d'acchiappo e lo è... Migliore della scuola di tango o di liscio o latino? Io direi di sì, sa perché? Perché c'è questo aspetto. Allora, per esempio, soprattutto gli uomini, diciamo, gli uomini frequentano la scuola di cucina da pochi anni. Prima io avevo esclusivamente allieve, adesso da qualche anno invece ho molti uomini. Beh, la televisione aiuta molto, ci sono molti di questi personaggi sulle TV satellitari, certo, di cuochi fighissimi. Esatto, bravissimo. Però non è solo questo l'aspetto interessante. L'aspetto interessante è che ci sono, parlo degli uomini in particolare, perché le donne lo fanno per motivazioni più diverse, più disparate. Gli uomini vengono di tutte le età, ripeto, specifico tutte le età, dicendo che magari sono dei single che vogliono imparare a cucinare perché li accorgono, si fanno compatire, sì, insomma, come quelli che vanno al supermercato verso l'ora della chiusura e fanno finta di non sapere cosa comprare. Sono solo. Oppure un'altra bella che dicono sono separato, il sabato e la domenica vengono i bambini a casa, poverino, sì, il papà fa tanta tenerezza. In realtà l'abbiamo già conosciuta anche questa fase. Senta una cosa, però in Gabriella, realtà vogliono preparare delle cene meravigliose per conquistare qualcuno. Mi devi spiegare una cosa: alla scuola di ballo capisco qual è il momento fatale in cui i corpi parlano e non occorrono parole. Nella scuola di cucina qual è l'elemento metaforico che fa scattare la scintilla dell'acchiappo? Allusioni vegetali? Assolutamente sì, lei fa meglio di me quanto il cibo. Il cibo diciamo è un mezzo di comunicazione. E mi faccio un esempio concreto, non lo so. Durante le lezioni le battute sono incredibili, quando, non so, si cucina la salsiccia piuttosto che magari si fanno gli gnocchi e quindi si devono fare dei salsicciotti con le mani. Quindi il salsicciotto, diciamo, l'allusione fallica è il topos che fa scattare, diciamo, la scintilla. Ma certamente. E lei che lo sa, naturalmente, metterà sempre nel menu settimanale qualcosa per far con salsicce, zucchini, ovviamente, cetrioli. Ovviamente, e do naturalmente molti consigli, soprattutto ai maschietti, su come, insomma, preparare bene una cena per avere il risultato garantito del dopo cena, no? No, è interessante che si crei questo clima da caserma in una scuola di cucina che permette... Ma non è tanto da caserma, perché sa, le battutine non sono particolarmente volgari, sono, sa, questi doppi sensi... Da sacrestia, allora? Sì, una cosa così, sì. Ma le battute che si scambia il sacrestano con la perpetua quando lucidano i candelabri, ecco, diciamo, sì, il clima è quello. Sì, più o meno. Che sono le migliori, sono quelle che vanno più a fondo, lasciano segni più tangibili nelle impenetrabili zone della passione. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt d'état. Fantastico come l'inverecondia alimentare di ancora distanza di decenni dalla nostra sciagurata fanciullezza in terra d'Umbria, in cui si ammazzava il maiale e non vi dico cosa accadesse attorno allo squartamento del maiale fra contadine e contadine, quando si erano fuori le sacche degli intestini e le viscere dal maiale. Beh, ancora nella metropoli italiana esiste il vecchio e antico sistema campagnolo e fescennino per suscitare passione nelle persone. Klaus, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sente? Perché sì, ho l'auricolare forse... Perfettamente, lei si è inventato un'altra cosa per mettere insieme le persone. Sì, io ho una galleria d'arte a Roma e tanti anni fa, credo nel 2004, ho fatto questi party del silenzio, silent party, paradossale, diciamo, incontrarsi nel silenzio. La gente, poi sono stati fatti anche... Ma sta guidando lei, Klaus? No, mi sono fermato. Magari tocca l'auricolare, perché secondo me c'è un'interferenza nel Bluetooth del suo auricolare. Sì, perfetto, sì, benissimo. Ora, ecco. Mi sente bene. Quindi dice, in questa galleria d'arte, Mondrian Suite si chiama, noi facciamo questi party del silenzio. Cioè tutti stanno zitti? Sì, non si può, si deve spegnere il telefono, non si beve, tranne che acqua. Ma si sta fermi oppure si ci si muove? No, ci si può muovere. La conoscenza zitti. Quindi è dell'opera d'arte, perché si conosce l'arte senza il commento, sai, i commenti che si fanno nei musei o nelle gallerie, sempre interessante, mi ricorda, sì, Kandinsky. Come la Biennale davanti alla moglie di Alberto Sordi addormentata. Esatto. Quindi il silenzio è più dignitoso a volte. E poi c'è l'esperimento della conoscenza. Ma ognuno può guardare dove vuole, quanto vuole, chi vuole, nessuno può dire niente. Sì, ci si può anche sedere. Però si guarda fissi, uno non può dire che c'è da guardare, deve stare zitto. Qualcuno ride. Qualcuno, infatti non viene la ridarella. Qualcuno non sopporta il silenzio perché... A me verrebbe da ridere. Siamo abituati al silenzio da soli. In casa possiamo stare anche 4 ore da soli senza... Ma il silenzio in compagnia fa paura, perché si mette in moto un meccanismo diverso che ovviamente la comunicazione... Ecco, come scatta la scintilla silenziosa della passione? Ma io ho visto più che scintille, come dire, delle vaghe suggestioni, perché poi la gente... Cioè a gesti, con le mani fanno dei segni inequivocabili. Gli occhi, no, molto gli occhi. Con pollice e indice, a cerchio, no. No, avviene molto il contatto oculare, gli antichi sguardi. Può proseguire dopo, quando la gente esce, perché poi una volta usciti non si può rientrare, e per cui magari la gente a quel punto si fuma una sigaretta fuori e inizia a conoscersi, oppure in altri casi c'è diciamo, la suggestione delle rose mai colte. Non amo che le rose che non colte. Anche quello, c'è anche chi gli piace arrivare sempre nella zona liminare del piacere e poi scappare via. Comunque, anche questa è una formula, anche questa è una maniera. Però adesso vorrei finalmente dare voce a chi rappresenta l'antitesi rispetto alla prima signora, la prima ascoltatrice che ha chiamato. La sessantenne che cercava gli uomini anziani. Stanno arrivando un'infinità di messaggi di denigrazione nei miei confronti, perché ho disprezzato questa signora. Non l'ho disprezzata, le ho detto che a 60 anni cercare uomini molto più grandi può avere qualche margine di pericolo, però ognuno è lecito che faccia ciò che più lo appaga. Alex Pacini, buongiorno. Buongiorno. Lei cosa si è inventato in Italia? Inventato, già esiste, ma l'ha importato in Italia? Sì, ecco, io ho voluto portare in Italia un fenomeno già molto conosciuto all'estero, che è il fenomeno delle donne cougar, che in italiano poi significa donne pantera. Sì, il donne coguaro, puma. Esattamente, donne coguaro, anche se non bisogna farsi ingannare dal termine, perché non sono delle semplici donne aggressive, cacciatrici. È un fenomeno che riguarda più gli incontri amorosi, quindi donne che... Vediamo se ho capito bene, la donna coguaro nell'accezione anglosassone, l'America è piena di fiction, di luoghi di incontro, sono donne realizzate professionalmente, belle, piacenti o perlomeno che si tengono su, dimostrano la loro sensualità e la loro femminilità, indipendenti, non hanno problemi, ma non hanno nemmeno il problema di nascondere i loro appetiti, e vogliono uomini, uomini per congiungersi carnalmente, fine, e li vogliono giovani perché li vogliono efficienti, attivi, e si crea questo rapporto fra cuccioloni, giovincelli in cerca di questo brivido della nave scuola e donne coguaro, metterli insieme si crea la scintilla fantastica. Allora, questa sì, esatto, la definizione classica. Io mi riferivo appunto ai dati che abbiamo dal nostro sito, ci siamo accorti, no, se posso appunto dire qualcosa di più specifico, che effettivamente in Italia ci sono tantissime, per esempio, casalinghe che si sono iscritte al nostro portale in cerca di relazioni con uomini più giovani, ma non solo per la questione di andare col ragazzino, è una questione di sentirsi viva, sentirsi di nuovo desiderata. Sono sempre maggiorenni, specifichiamo, se no scatta il penale, come si dice. Sono sempre ragazzi maggiorenni, però può avere, sì, diciamo... Certo, il nostro portale non è possibile, l'età minima chiaramente è 18 anni, comunque sono queste donne mature sono in cerca statisticamente di ragazzi tra i 20 e 30 anni. E loro quanti anni hanno le coguare? Vanno dai 40 ai 55, ma arriva anche fino ai 65 anni. Lei ha fatto 50.000 iscritti in pochi mesi, quindi 50.000 persone in Italia hanno applicato la formula del cucciolo e della coguara, cioè la donna coguara che si spolpa il ragazzetto, e penso con reciproca soddisfazione. Assolutamente, tanti mi chiedono ma che cosa dovrebbe trovare un ragazzo di 20-25 anni andare con una donna di 50 anni. Sono cose che alla radio non si dicono volentieri, però esiste un margine di soddisfazione, soprattutto guardando, guardi, le faccio un esempio, Alex Pacini. L'esempio di Miss Italia che tratterò la prossima settimana. Queste spolpate anoressiche e eccentricamente femminili ragazzette che devono acquisire la fama mettendo qualche loro foto scosciata su internet e che rappresentano il fiorfiore delle ragazze del porto accanto non suscitano più nulla se non in qualche vecchio bavoso. Quindi normalmente un ragazzo desideroso di carnale tenzone concreta, reale e soddisfacente deve necessariamente andarla a cercare nella donna che va a un'età variabile fra 35 e oltre anni. Sono più che convinto. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Anche lei ha una formula interessante che non sospettavo. L'acchiappo al cimitero. Esatto. E che succede? Succede questo. Sembra una cosa da amici miei, ma è vero? No, io ho un amico che da tanti anni che è becchino, chiamiamolo così. Ah, un beccamorto specializzato in vedove. E lui mi dice, guarda Massimo, se vieni ti faccio conoscere la tizia che è un anno, 6 mesi, 2 anni, dipende, insomma. Insomma, io ci ho provato, non è andata male. Ma consuma direttamente sull'oculo oppure c'è una fase intermedia? Il mio amico vecchino non si è mai tirato un dietro. Non si fa scrupoli, quindi? Non si fa scrupoli. Mentre io con il morto ancora caldo, lui si approfitta della vedova. Beh, diciamo caldo caldo no, perché ci sono sempre le lacrime sugli occhi, quindi è una cosa un po' cattivella. Ecco, però... secondo lei questo è un sistema infame o in fondo ha una sua funzione sociale, consola chi è addolorato? Io credo, ecco, soprattutto perché poi lo smarrimento di una vedova nei primi 4-5 mesi, che poi chiaramente anche dopo l'anno non è detto. Certi lutti non si consolano mai. Esatto. Però esistono dei palliativi, dei lenitivi, delle formule che permettono comunque di tirare avanti meglio. Se il becchino ci sa fare, collabora. No, ma il becchino collabora con me, ha collaborato con altri suoi amici e altri. Ma anche lei nel ramo sepolture? No, io faccio la gente di commercio, sto andando in pensione perché abbiamo quasi la stessa età. Ne ha già seppelliti abbastanza. Vabbè. Ma diciamo così, che più che seppellite, sfogliate. Vabbè. La ringrazio, Nicoletti. Grazie a lei. Paolo. Pronto? Paolo è un ballerino. No, stamattina stiamo toccando... Ecco, diciamo, forse è un luogo comune, nel senso che nel ballo si lascia andare, per certi balli, poi anche molto di più. Tipo però mai come adesso esistono scuole di ballo ovunque. Cioè, gli italiani non hanno mai ballato come adesso ovunque. Sì, la famosa trasmissione televisiva, poi c'è stato un boom di fiorire, di palestre, che si sono messe a fare... Ma lei è un ballerino o un insegnante? Cos'è? No, diciamo che tanti anni opero nel campo del ballo, ormai non faccio più... né gare o cose del genere, però diciamo sono rimasto. E le vede un'attenzione particolare nel passaggio dalla promiscuità del ballo alla promiscuità del rapporto? Sì, è molto molto semplice la linea, perché praticamente poi quando si balla ci si lascia andare. Poi beh, uno già ce l'ha addosso una persona, non è che ci vuole di fare tanta fatica. Ecco. Insomma, sono balli di coppia, di conseguenza, ma si balla molto vicino, non so, tipo una baciata è molto... la baciata mi hanno detto che è il più malandrino dei balli. Sì, è più malandrino perché lì, praticamente, come dico io, quando si dà gas, cioè si vede se la ragazza va fino in fondo, anche come forma di sfida, o se effettivamente... Si dà gas se il carburatore regge, perché sennò lei può sgassare quanto vuole. C'è un altro ballo, è molto più sensuale forse della baciata, che è il tango. Va bene, sì. Paolo, mi dicono che devo chiudere, sennò mi segano, mi multano. Grazie, quello della baciata, del tango, di dare gas, mi sembra una delle metafore più calzanti per dare l'idea di quello che era il problema, volevamo centrare. Esiste ancora, vive a Dio, una folta schiera di esseri umani che si va a cercare fisicamente, carnalmente, dai cimiteri, ai supermercati, alle scuole di cucina, ovunque ci sono persone vive e in grado di far vivere. Melog 2.0. Alors tous deux, on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.